somigli a quel fesso di mio zio Vito. Tua zia troverebbe il paragone alquanto ardito. Ogni nemico io l'ho sempre annientato. Beh, col tuo fiato sicuramente l'avrai soffocato. Sei più ripellente di una scimmia in negligé. Somiglio tanto alla tua fiancée. Sei il mostro più orrendo mai creato. Un po' come tutte le ragazze che hai corteggiato. Quando tuo padre ti ha visto, deve essere rimasto basito. Beh, almeno il mio può essere reperito. Per le mie imprese, in tutti i Caraibi vengo celebrato. Peccato che sia tutto inventato. Preferisci essere sepolto o cremato? Guarda, con te in giro preferirei essere affumicato. Ti infilzerò come un porco in un buffet.